Questo quella per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Per mio cuore l'impero non cedo, mille d'una che un'altra beltade. La costoro avvenenza è quel dono di quel fatto l'infiora la vita. Sogli questa mi torno gradita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, e domani lo sarà. La costanza tirana del cuore detestiamo, quel morbo crudele. So chi vuole si serve fedele, non m'amori se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, delle amanti le smanie del rido. A godarco i cintocchi di sfido, se mi punge una qualche beltà a sé. Una qualche beltà.